Radio 24 Reportage. Dentro il memoriale della Shoah di Milano, di Maria Piera Ceci. Nel film Tren de Vie, Radu Mihaileanu immaginò che un treno strampalato sottraesse gli ebrei ai rastrellamenti nazisti. I treni che vediamo invece al binario 21 della stazione centrale di Milano portarono centinaia di ebrei nei campi di concentramento. Un memoriale, quello sorto a Milano, che in occasione della giornata della memoria, oggi e domani, apre le porte ai cittadini e offre guide d'eccezione, fra cui Gad Lerner, Lella Costa, Ferruccio De Bortoli. Per il resto dell'anno resta invece aperto alle scolaresche e ai privati su prenotazione. Un memoriale che quest'anno si è arricchito di un auditorium e che presto, fondi permettendo, si arricchirà di una biblioteca che ospiterà fino a 45.000 volumi. Un luogo della memoria, questo che oggi visiteremo insieme, guidati dalle parole di Roberto Jarak, vicepresidente del memoriale. Un luogo per ricordarsi di ricordare e contro l'indifferenza, parola che campeggia lugubre all'ingresso del memoriale. Noi abbiamo chiesto a Liliana Segre, proprio la prima volta che è venuta, se c'era qualche espressione, qualche vocabolo che le desse la sensazione di interpretare correttamente i suoi sentimenti. E lei, di prima battuta, senza nessun dubbio, ha detto indifferenza. Indifferenza cosa vuol dire? Vuol dire per lei essere uscita da San Vittore, aver percorso Corso Magenta nel camion telato, essere passata sotto casa sua, aver visto le finestre anche di casa sua che si aprivano, qualcuno che si sporgeva, vedeva questa sequenza alle 4 di mattina di camion telati e vedere richiudersi la finestra e capire dopo che non aveva avuto nessun seguito. Quindi per lei è rimasta questa immagine del fatto di gente che sapeva benissimo che stava succedendo qualcosa, magari non precisamente nei dettagli, ma sapeva che stava succedendo qualcosa perché vedeva questi camion che si muovevano alle 4 di mattina d'inverno. Voi noterete che l'ingresso ha, dopo il muro dell'indifferenza, si inizia una rampa di salita che ha una curva e dopodiché le persone che entrano scompaiono, per quelli che sono giù nell'atrio, scompaiono dietro il muro. Questo è un messaggio che secondo me è molto importante, che ha voluto dare l'architetto Morpurgo e l'architetto De Curtis. È come da lì si scompariva alla vista del mondo, si scompariva come identità, si scompariva fisicamente. Dopodiché si viene nella zona, quella del memoriale, che comincia da questo corridoio che è la terza campata, che è solo di avvicinamento alla zona vera del memoriale. Sono dei vagoni dell'epoca. Dell'epoca vuol dire costruzione anteriore al 38, quindi sicuramente dei modello usato per i trasporti dei detenuti verso i campi di concentramento, di sterminio. Che avete voluto lasciare com'erano? Abbiamo voluti toccare per quello che era il minimo indispensabile per togliere pericolosità, togliere zone di inciampo, togliere chiodi e altri elementi, ma non toccare quello che sono i materiali. E nei treni si può entrare, questa è una cosa molto suggestiva perché... Esattamente. Io voglio dare l'idea a chi attraversa questo vagone di quelle che sono le dimensioni fisiche, rendersi conto di due elementi fondamentali. Allora, il primo è che questi carri erano omologati per 6 cavalli e all'interno di questi carri c'erano da 80 a 90 persone. Quindi questo dà già un'idea di cosa vuol dire il sovraccarico, il sovraffollamento di persone che per 6 giorni restavano, e oltre 6 giorni restavano chiusi qua all'interno. Il secondo elemento che si vede solo entrando in questi vagoni è che per persone che sono sotto il 1,70 m c'è solo una visione verso l'alto, non c'è la possibilità di vedere verso il basso, perché queste sono le aperture e le uniche aree, le uniche zone da cui arrivava aria e luce. Quindi per 7 giorni questo era il massimo di illuminazione quasi che si poteva avere e non si poteva praticamente vedere assolutamente passando nelle stazioni cosa succedeva. Quindi noi abbiamo, abbiamo testimonianze di biglietti, di cartoline, di note buttate da queste grate, fatte filtrare attraverso le grate, trovate sulle banchine. Do Stibel is auf, verwachsen mit Groß, der Dach zerfällt, die Fenster ungelos, der Garnik ist krumm. Se beugen die Wände, ich wollte schon mehr. E poi c'è il muro dei nomi. Questo è il muro dei nomi. Il muro dei nomi che ha un significato per noi molto profondo e molto pregnante. Su questa parete sono riportati 774 nomi in ordine alfabetico che sono i, tra virgolette, passeggeri dei due convogli di Auschwitz, quello del dicembre del 43 e quello del gennaio del 44. Il totale dei nomi sono 774, in colore diverso sono segnati i 27 nomi dei sopravvissuti. La decisione che abbiamo preso è quella di far uscire i nomi in sequenza alfabetica, senza distinzione tra chi è mancato e chi è sopravvissuto, perché la destinazione era comune e solo casualmente ci sono 27 sopravvissuti. Ma quello che è importante è che abbiamo voluto e vogliamo in ogni occasione ridare un'identità personale alle persone, all'essere umano, a quella che era la sua identità vera, ecco un sopravvissuto. Il messaggio è: ridiamo l'identità a delle persone che erano diventate prima numeri e poi pezzi. Perché prima c'era l'identificazione, allora non ti identifico più per nome, ti identifico per numero, già ti spoglio della tua storia e della tua essenza, e dopodiché non ti chiamo neanche più entità, ti chiamo pezzo. Cioè i detenuti di Auschwitz erano pezzi, quindi quando facevano gli appelli, quando si diceva dobbiamo mandare i lavoratori qua, mandiamo 22 pezzi, mandiamo 50 pezzi, nella baracca ci sono oggi 7 pezzi malati. Poi c'è questa struttura conica. Questa è la conclusione, diciamo, del giro, del percorso, della memoria, che consente e vuole dare la possibilità ai visitatori di concentrarsi, di rielaborare il pensiero, di rimeditare su quello che ha visto, su quello che significa e ha significato per tanti esseri umani essere passati da qua ed essere andati dove sono andati. Quindi questo è un percorso un po' avvolgente che conduce e porta a spirale all'interno quasi dell'inferno dantesco, cioè l'immagine della chiocciola, dell'elica, è sempre un po' questa. Quindi si entra e questo luogo ha una sua, lo potete notare, un'insonorizzazione, non ha simboli, non vuole essere un messaggio religioso, vuole portare alla meditazione, all'introflessione e al ragionamento, soprattutto alla concentrazione, e dà un'unica guida, è la guida spirituale della linea di Gerusalemme, valida per tutte le religioni monoteiste. E questo segna proprio la fine del percorso e la fine di un discorso, diciamo, che poi deve essere però l'inizio di una rielaborazione, di un approfondimento, di una sensibilizzazione, che è quello che poi il mondo scolastico, il mondo dell'insegnamento dovrebbe portare avanti. E infatti sono già molte le scolaresche che hanno visitato il memoriale. Ricordare è un dovere per evitare che tragedie di questo tipo si ripetano, ci racconta un insegnante di un liceo di Busto Arsizio in provincia di Varese. Sapevamo che dall'anno scorso, no, Binario 21, finalmente, anche se i lavori non sono completati, apriva i suoi battenti come luogo della memoria. E siccome è il primo memoriale e siamo in grande ritardo rispetto alle altre nazioni e anche l'eccezionalità di essere un luogo autentico, non come il memoriale peraltro bellissimo di Parigi o altri memoriali, questo è un luogo autentico e i luoghi sono importanti per ricostruire la memoria. I ragazzi sono stati preparati, sanno cosa vengono a vedere? I ragazzi sono stati preparati a Binario 21, credo che siano stati informati sia da un punto di vista storico, cioè che cosa è successo e perché, ma anche da un punto di vista architettonico, cioè che cosa è stato fatto nel riutilizzo di questo edificio. Perché oggi è ancora così importante, anzi soprattutto forse oggi è così importante portarli in luoghi della memoria come questi? Perché la conoscenza di ciò che è stato non è detto che sia sicura. Eppure, non so perché, ma ci rassicura guardare negli occhi questi ragazzi che sfilano muti dentro le carrozze del treno, che guardano le fotografie e leggono le storie di chi ora non c'è più, che dimenticano per un attimo i loro telefonini in tasca, non scherzano, non ridono, ma si siedono almeno per un attimo a pensare. E diciamo che la prima parola che mi è venuta in mente è stato angosciante, vedere e comunque ricordare, sentire sulla propria pelle questa sofferenza che hanno passato tutte quelle persone, è veramente una cosa che tocca. Cos'è che ti ha colpito più di tutti? Forse sono stati proprio questi vagoni così stretti, così angusti, questi luoghi angusti, poco decorosi. Io non, cioè non ci sono parole, perché tu guardi cosa è successo ad altre persone e cerchi di pensare a cosa pensavano, e quindi è brutto. Cioè io all'inizio mi sono sentita un po' strana, perché non sapevo cosa dire o cosa pensare, e quindi ero un po' strana. Poi quando abbiamo dovuto passare da qui, dall'altra parte, tramite il vagone, è stata un'emozione forte, perché eravamo tutti in silenzio e guardavamo come erano ridotti lo spazio ristretto, dove pensavi che c'erano 70 persone ammassate e non riuscivi, non lo so, è stato strano. Quindi ancora adesso quando guardo intorno non so cosa dire, perché non ho parole. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.